Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, proseguiamo la chiacchierata iniziata venerdì sera con Lorenzo Fiori, direttore strategico di Finmeccanica. Buonasera Fiori. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Ecco, dicevo, Finmeccanica, azienda che sta sviluppando tutta una serie di iniziative in tema di sicurezza delle città e di sicurezza della gestione di aree dove si prevedono grandi flussi di persone e di mezzi, come per esempio i porti, dove avete progettato un sistema che si chiama Gaia Gate, di cui però parleremo un'altra volta. A proposito di porti, però, c'è un grande porto che sta nascendo qua a Milano, si chiama Expo 2015, perché per un po' sarà una specie di porto con un sacco di gente che va e che viene. E voi avete progettato e installerete una piattaforma che si chiama Smart, Safe and Secure City, quindi città sicura, che appunto installerete in tutta l'area dell'Expo per effettuarne la sorveglianza. Sì, stiamo realizzando una piattaforma molto avanzata. Per quanto riguarda specificatamente su Expo 2015 la gestione integrata di tutta la sorveglianza del sito espositivo e dei relativi padiglioni. Dire sorveglianza è un po' riduttivo, perché uno degli aspetti importanti che questa piattaforma sarà in grado di assicurare è quella della gestione intelligente dei flussi dei visitatori. Ecco, questo è lo scopo principale, no? Viene ecco. Detta gestione delle folle, crowd management. Crowd management, esatto. E quindi appunto un sistema che consente il monitoraggio e anche la gestione, perché diciamo avendo dati poi si possono prendere delle decisioni, del flusso di persone che entrano e che escono. Sì, ci sono delle technicalities interessanti, ci sono 1500 tra telecamere e sensori, poi ci sono 62 occhi elettronici, telecamere quindi a infrarossi, e tutto viene coordinato da una centrale operativa. Ci spiega però come avviene questo, perché è anche abbastanza interessante. Cioè, non ci saranno 1500 agenti che guardano ognuno una telecamera, no? Per intendersi. Sarebbe un costo, pochi, il costo di una guerra, ecco. Certo, certo. Il sistema integrato di sorveglianza consente di automatizzare l'analisi della scena ripresa dalle varie telecamere, dai sensori infrarossi. Ci sono due tecnologie principali, quella dell'analisi dei comportamenti delle persone, laddove si verifica un comportamento anomalo, automaticamente viene dato un'allerta all'operatore. Cioè questo vuol dire che c'è un'intelligenza artificiale che è in grado, da un'immagine di telecamera, di capire che una persona, per esempio, magari sta lanciando un sasso contro un vetro, non lo so, qualcosa del genere, oppure aggredendo qualcuno? C'è qualcuno che sale le scale mobili in senso inverso, che okay. Più efficace. Questo è sicuramente un qualcosa che un processamento intelligente ed evoluto dell'immagine è in grado di riconoscere. Di riconoscere automaticamente e quindi di segnalare che c'è un comportamento anomalo, e questo è il comportamento, l'analisi dei comportamenti. Poi invece la parte, ed è una cosa più tradizionale se vogliamo, ma la parte invece più evoluta è proprio quella che riguarda invece il crowd management, cioè l'analisi dei flussi grazie all'elaborazione del segnale video. Di nuovo, questo caso tipicamente un flusso di persone si muove come si muove un fluido, no? In una maniera abbastanza predeterminabile. È chiaro che l'analisi dell'immagine e del contenuto dell'immagine può rivelare in maniera automatica quelli che possono essere delle improvvise interruzioni. Per esempio il flusso della folla, in generale ci si basa sull'analisi del baricentro della folla, e si ferma improvvisamente, e questo chiaramente è un segnale che è successo qualcosa, è portato all'operatore, il quale può dare uno sguardo e dire no, beh, si sono fermati ma non c'è nulla niente di strano. Oppure la disposizione stessa della folla in forma geometrica, per esempio un cerchio, che è il tipico segnale di una persona che può essersi sentita male, oppure la distribuzione che cambia, per esempio il fatto che siano cadute delle persone perché c'è stato un accalcamento. Queste cose qui si possono elaborare in maniera elettronica, come diceva lei, con una sorta di intelligenza artificiale, e quindi aiutare l'operatore ad avere un'allerta e non necessariamente avere 1500 operatori, ciascuno dei quali guarda un cosa che sarebbe del tutto insostenibile. Senta, io però, come dire, non posso non farle questa domanda. Certo che 1500 telecamere un po' fanno anche paura, cioè è inevitabile che venga in mente, ma saranno usate bene o male, la privacy dove va a finire? Ma io francamente le rispondo dicendo che non vedo il problema della privacy, stiamo parlando innanzitutto di luogo pubblico, stiamo parlando di un luogo dove tante persone vogliono passare una giornata interessante che accresca la loro conoscenza di tutti quelli che sono temi critici per il nostro pianeta, ma questo vale in tanti altri contesti, voglio dire, e quindi il fatto di poter utilizzare queste tecnologie, quindi di riprendere con le telecamere e fornire tutta questa serie di servizi che consentono di potersi muovere in sicurezza e in safety, come diceva prima, secondo me è un valore, è un plus. Il discorso della privacy non lo vedo, se non altro per il fatto che le telecamere non sono certo in grado di capire quella che è l'identità fisica personale delle persone, cioè le persone rimangono così. E comunque nell'ambito delle immagini, quelle come si dice, dell'analisi dei comportamenti, ci sono tutta una serie di tecniche che, laddove queste debbano essere utilizzate per altri scopi, consente in maniera automatica di poterne sfumare i volti e quindi di garantire privacy laddove queste debbano essere riprese. Queste sono tecnologie di nuovo abbastanza standard, quindi non lo vedo il problema della privacy in questo caso. E diciamo, immaginando una diffusione così a tappeto di queste cose, perché uno capisce, entra, non so, in una fiera e lì ci sono degli standard anche di sicurezza. No, io lo dico perché in realtà probabilmente è vero che tecnologicamente tutti i problemi di privacy sono affrontabili. Il vero problema salta fuori quando si pensa se queste cose dovessero mai finire in mano a qualcuno, se queste cose fossero in mano ad alcuni signori che governano certi paesi. Come cittadino non so se mi sentirei più sicuro con o senza le telecamere. Non è il nostro caso in questo momento, eh. Certo, però Expo 2015, anche per la sua rilevanza internazionale, è chiaramente un evento sensibile, quindi sì, da questo punto di vista bisogna garantire il massimo della sicurezza, e visto che ci sono queste tecnologie, altrimenti uno dovrebbe schierare un numero di addetti alla sicurezza impressionante, certo. La cosa diventerebbe non sostenibile. Grazie Fiori. Grazie a lei, di nuovo. È tutto, a domani.